Buonasera cari radioascoltatori, benvenuti ad un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. In studio Annalisa e in regia Roberto Giava. Buonasera a tutti. Ciao Roberto, e in studio anche Maurizio Molinari. Ciao a tutti. Ciao Maurizio, io a questo punto, cari radioascoltatori, passo già la parola a Maurizio che condurrà la puntata di questa sera. Maurizio, questa sera di che cosa parliamo? Questa sera parliamo della libertà di stampa e del futuro del giornalismo, prendendo spunto da un rapporto pubblicato a maggio, quindi in questo mese, all'inizio di questo mese, dalla Freedom House, che è un'organizzazione non governativa americana, che per la prima volta ha declassato l'Italia a paese partly free, parzialmente libero, per quanto riguarda la libertà di stampa e la libertà di informazione. L'Italia è al 73esimo posto nei 195 paesi presi in esame da questa organizzazione. Siamo dietro a Israele e al Benin. Siamo l'unico paese dell'Europa occidentale a essere stato classificato come partly free, parzialmente free per quanto riguarda la libertà di stampa, l'unico paese dell'Europa insieme alla Turchia. Ai primi posti di questa classifica ci sono l'Islanda e i paesi scandinavi, ai primi posti mondiali. Gli Stati Uniti sono solo al 24esimo posto. I motivi per il declassamento dell'Italia sono principalmente l'eccessiva concentrazione della proprietà dei mezzi di produzione, dei mezzi di informazione, le intimidazioni che i giornalisti subiscono dalla criminalità organizzata, l'eccessivo ricorso alla giustizia, le eccessive denunce per diffamazione. Per parlare di questo tema abbiamo in studio un giornalista Rai, Alessandro Forlani, che lavora per Radio Rai GR Parlamento. Buonasera a tutti. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro, benvenuto. Grazie. A Radio Alma e a Giro di Boa. E in collegamento, non so se sia già collegato, dovremmo avere... Non ancora, lo avremo tra un attimo. Non abbiamo ancora il collegamento stabilito. Comunque avremo Vittorio Roidi, che è l'ex segretario generale dell'Ordine dei giornalisti. È stato anche lui giornalista Rai, ha lavorato al Messaggero ed è ora presidente dell'Associazione Giornalismo e Democrazia, di cui lui ci parlerà più diffusamente in seguito. Io inizierei chiedendo ad Alessandro Forlani se secondo te il declassamento dell'Italia dipende in gran parte dalla concentrazione della proprietà dei media in poche mani. La Freedom House non fa giri di parole, cita direttamente Berlusconi. Sì. Quanto è effettivamente così? Quanto la qualità della libertà della stampa e del giornalismo italiano dipende in effetti dalla concentrazione in poche mani o in una sola mano, in due sole mani, dei mezzi di comunicazione e di informazione? Allora, è chiaro che se ci sono più editori, quindi più soggetti che si fanno concorrenza, la qualità dovrebbe migliorare. Non è detto, perché se noi pensiamo ad esempio all'Italia degli anni 60, in cui c'era un monopolio televisivo, avevamo una Rai che faceva degli ottimi programmi, quindi è difficile fare un discorso appunto astratto. Se andiamo nel concreto, in Italia quello che abbiamo è che anzitutto non c'è il cosiddetto editore puro, ci sono quindi gli editori sono sempre degli imprenditori che hanno anche altre attività, e quindi già questo si fa sempre il famoso esempio di Caltagirone, no? La famiglia Caltagirone, che possiede il Messaggero e il Giornale di Napoli, il Mattino, è difficile che farà un'inchiesta sul problema della cementificazione a Roma. Il caso Berlusconi poi è eclatante, nel senso che qui abbiamo un imprenditore che è attivo nel campo, è partito dall'edilizia, poi è attivo nel campo delle banche, delle assicurazioni, della televisione, e poi adesso è diventato anche Presidente del Consiglio, quindi ha la possibilità anche di controllare il servizio pubblico e poi possiede anche tanti giornali, quindi certo sono vere entrambe queste cose. Certo vale questo problema della proprietà, che è molto serio, e poi c'è il problema di come è impostato il giornalismo, sia televisivo sia nella carta stampata, cioè di come vengono confezionati i giornali. Non so se vogliamo poi parlarne più tardi. Magari sì, poi ne parliamo. Io non so se Vittorio Roidi è in collegamento. Per collegarci con Vittorio Roidi avremo bisogno nuovamente del suo recapito. Lo recuperiamo fra un istante, lo avremo fra massimo un minuto. E allora niente, chiederei ancora ad Alessandro se quale può essere l'attendibilità di queste inchieste. Perché noi finiamo addirittura dietro un paese come le Maldive, che sì, è considerato libero per un cambiamento alla Costituzione. Poi ne abbiamo parlato anche a Giro di Boa un paio di settimane fa, proprio delle Maldive. E l'Italia, nonostante la Freedom House riconosca che la libertà di stampa in Italia è un diritto costituzionalmente garantito, finisce dietro a paesi come le Maldive, che per aver liberato un giornalista e per aver fatto un cambio di costituzione sono classificati paesi free. Quindi viene un po' da domandarsi qual è l'attendibilità di queste Sono le statistiche, ci si basa appunto su tutta una serie di parametri, no? Ora, ad esempio, gli Stati Uniti, tu mi dici, sono al 24° posto. Gli Stati Uniti sono la patria del giornalismo libero e sono un paese in cui si può, diciamo, mettere sotto accusa il presidente, no? Sono il paese in cui un presidente è stato costretto a dimettersi perché è stata fatta su di lui un'inchiesta giornalistica nel 1974, Richard Nixon. Quindi sono ricerche senz'altro attendibili. La Scandinavia appunto è ai primi posti perché lì abbiamo tutti i parametri a posto, cioè ci sono gli editori puri, c'è la concorrenza nel sistema televisivo, non c'è tanta criminalità, quindi tutti i parametri vengono rispettati. Però ad esempio anche Israele è un paese in cui ci sono fior di giornali, insomma, no? Eppure va è al 72° posto, appunto, molto in fondo, al Benin, ecco, però se noi leggiamo, non so, però diciamo che in Israele c'è un contesto, è un giornale molto serio, insomma, su però cui in Israele c'è un controllo, cioè c'è già un controllo degli ingressi, c'è un controllo insomma anche dell'informazione, che perché appunto sono dei parametri diversi a seconda, diciamo, dei parametri. Io penso che il problema dell'Italia principale sia appunto questo della proprietà dei mezzi di informazione. Come dicevi anche prima nell'introduzione, questo della criminalità, perché comunque meno che in passato, perché ricordiamo, noi abbiamo negli anni 70 e negli anni 80 come giornalisti il paese ha pagato un fortissimo tributo, prima per il terrorismo di destra e di sinistra, poi per la mafia. E poi c'è questo problema della diffamazione, che anche indubbiamente è uno dei problemi che condiziona anche l'attività del giornalista, no? Perché se io so che poi sarò accusato di diffamazione e so che ci sono fior di avvocati che lavorano per le persone di cui io voglio parlare, chiaramente sarò molto in difficoltà. E fra l'altro poi su questo non so se anche dal punto di vista legislativo, no, vengono introdotte adesso, sì, c'è adesso in discussione il tema delle intercettazioni che sembra che non sembra vogliono mettere hanno messo la fiducia addirittura, quindi sì. Insomma i giornalisti, ricordiamolo per gli ascoltatori, che i giornalisti, è previsto il carcere per i giornalisti che pubblichino anche atti di indagine che non siano coperti da segreto, quindi insomma. E in più c'è previsto qualcosa che col giornalismo ha a che fare, ma ha a che fare molto di più con la possibilità di mandare avanti le indagini sono previste intercettazioni solo per reati definiti gravi con pene superiori ai 5 anni. Ecco Maurizio, ma negli altri paesi come si il problema delle intercettazioni come è diciamo risolto dal punto di vista giuridico? Qual è la legislazione Guarda, io vigente? Non sono in grado di rispondere, non so se Alessandro ha esperienza di qualche paese. Io non sono in grado di rispondere. Però, insomma, quello che stanno facendo in Italia è, da quello che so io, abbastanza anomalo, diciamo. Perché con la scusa, con la scusa di tutelare la privacy dei cittadini si ostacolano le indagini. E soprattutto si mette un bavaglio. Io posso dire che ad esempio. Penso, forse gli ascoltatori ricorderanno poco tempo fa il caso del governatore dell'Illinois, non ricordo il nome perché è un nome di tipo slavo un po' difficile, che si è dimesso per aver, e poi è stato anche incriminato per aver di fatto venduto il posto al suo successore, no? Non so, è una storia un pochino complessa, insomma. Comunque lui era arrivato a fine mandato, aveva la possibilità, diciamo, di indicare la persona che si sarebbe candidata al suo posto e ha praticamente messo all'asta questo posto. Ecco, le intercettazioni erano ascoltabili nel telegiornale delle 18, che è quello come per l'Italia, diciamo, il prime time, le 20, della CBS. Quindi io credo che Parliamo di Rod Blagojevich, il governatore. Sì, ecco, non so se è ancora in carica, però, se si è dimesso. No, penso che si sia dimesso. Avete parlato, una domanda, avete parlato di ricorso alle corti di giustizia, quindi di processi per diffamazione. Mi chiedevo soltanto se avete qualche dato a riguardo, qualche statistica sul numero dei giornalisti, quindi alla fine condannati per questo supposto reato. La Freedom House cita due casi in particolare, che è un modo di esempio, che è quello di Travaglio e quello di Steele, che sono due giornalisti che appunto sono andati, sono stati soggetti appunto a processi per diffamazione, e sono due casi abbastanza, diciamo sono due casi esemplari. Non mi risulta che abbiano dato dei numeri su... Io so che Travaglio, quando scrive un libro, il suo editore praticamente ha uno staff di avvocati che devono, insomma, stabilire già preventivamente quelle che sono le possibili accuse. Di chi è morto e morirà, insomma, sì. Travaglio, lo diranno già subito. Ma secondo te, Alessandro, questa notizia della libertà di stampa, del declassamento dell'Italia... Se è stato dato il giusto risalto nei media, oppure se è stata nascosta? Io ho letto un articolo del giornale, il giornale in cui gli dava dei fessi in generalmente queste notizie che riguardano il confronto con l'estero, insomma, vengono prese un po', vengono ridicolizzate, si tende a dire: ma guarda un po' questi, quali parametri, perché non vengono qui a vedere come stiamo noi, e alla fine poi concludono che comunque agli italiani piace così, e del resto è anche vero, perché il Presidente del Consiglio è stato eletto da più del 50% degli italiani. Comunque i numeri ufficiali credo non sono ancora stati pubblicati da parte della Freedom House, li attenderemo per giugno. Ciò che adesso credo emerga sia soltanto un giudizio sintetico legato a un aumento dell'uso di tribunali e leggi contro la diffamazione, però non ci sono ancora cifre ufficiali, credo che poi il ranking sarà pubblicato fra un mese circa. Sì, è la direttrice di questa Freedom House, Jennifer Windsor, ha definito il giornalismo come un settore alle corde. Per due motivi in particolare: la crisi economica che ha colpito profondamente questo settore e le forti pressioni dei governi. In generale la situazione del mondo è definita in peggioramento, la situazione della libertà di stampa nel mondo è definita in peggioramento. Secondo te, Alessandro, sono vere le voci che parlano di giornalismo finito, di... niente futuro per i quotidiani? Secondo me no, finché ci sarà il desiderio delle persone di essere informate ci sarà giornalismo, magari saranno delle forme diverse, insomma il giornalista diventerà un po' un mediatore, una persona che organizza magari tutto quello che viene pubblicato sulla rete, insomma, però io non credo che, me lo auguro almeno, ecco. E vedi effettivamente un peggioramento da quello che leggi nei media internazionali, vedi un peggioramento della situazione del mondo per quanto riguarda la libertà di Dipende stampa. Sempre che cosa si intende. Allora, parliamo ancora del caso dell'Italia, no? Che è quello poi che conosciamo, perché io voglio dire, non è che abbia, sì, conosco un po' la Francia, un po' la Germania, un po' gli Stati Uniti, da quello che oggi, diciamo, grazie a un po' TV satellitare, internet, soprattutto questi servizi di podcasting, insomma, si può. Allora, in Italia non si può dire che non ci sia libertà, perché se io voglio aprire un giornale, stampare un giornale, posso benissimo farlo. Se io voglio aprire una radio locale, non è impossibile, diciamo, trovare qualcuno che ti vende le frequenze. Qual è il problema però? Riuscire a diffondere, cioè io posso trovare magari qualcuno che è una cosa che costa carissimo, diciamo, fare un giornale costa centinaia di milioni, perché bisogna pagare gli stipendi ai giornalisti, bisogna trovare delle persone che ti sostengono con la pubblicità, bisogna appunto stampare e poi distribuire il giornale. Fare una radio lo stesso, su cui anche voi penso in questa radio abbiate dei costi, no? Quindi c'è libertà, però poi se tu hai una voce che non può essere ascoltata, allora chi è che appunto riesce a sopravvivere? Chi ha i finanziamenti? Se questa persona che ha i finanziamenti per di più è anche una persona che fa politica, allora è chiaro che ha un forte potere di condizionamento, no? Io non ci vuole tanto coraggio, insomma, per fare delle critiche nei confronti di una persona che occupa il sistema dei media e per di più occupa anche la politica. Oggi, ad esempio, poi in Italia, oltre a giornali, appunto radio, c'è anche il sistema delle TV satellitari, no? Abbiamo un operatore unico in pratica sul satellite, che è Rupert Murdoch, e poi abbiamo la TV del digitale terrestre, che è la nuova televisione, quella che si... che per alcuni come Beppe Grillo è già superata. Guarda, io dal punto di vista, diciamo, tecnico non sono un intenditore, però posso dire che adesso parte, è un sistema che parte in tanti paesi europei, perché sta per partire anche in Gran Bretagna, sta per partire in Francia. Il problema è che sul digitale terrestre si ripropone lo stesso, diciamo, sistema di proprietà che si ripropone sull'analogico, cioè io almeno immaginavo, adesso con digitale terrestre ci saranno tanti canali, quindi verranno messe all'asta tante licenze e quindi nascerà appunto più pluralismo. Invece, ad esempio, la partenza italiana per questo 2009, che appunto vedrà il digitale terrestre subentrare all'analogico in alcune regioni, Piemonte, Lazio, già si è partiti con la Sardegna, ci saranno 19 canali, di cui 5 della RAI, 5 di Mediaset, 3 di Telecom, 1 di Europa 7, che è quel famoso... quello che non gli hanno dato le frequenze che dovrebbe dargli Rete 4. Analogiche, sì, che è da 10 anni che ha le frequenze analogiche, ma per una serie di decreti emessi da tutti i governi, sia di destra che di sinistra, ha sempre avuto il rinvio, insomma, finché adesso otterrà un canale in digitale. Uno è di Rete Mia, di Rete A, e poi ci saranno 3 canali che saranno messi all'asta, però saranno messi all'asta soltanto a operatori della televisione, quindi in sostanza saranno, credo, delle TV locali che avranno la possibilità di allargarsi sul questa è una conseguenza della legge Gasparri, che anche questa legge, la legge Gasparri, è stata molto criticata dalla Freedom House come una di quelle leggi che non favoriscono la libertà di stampa e il pluralismo, insomma. Dovremmo avere in collegamento Vittorio Roidi. Ci senti? Ci sente? Sento molto poco, purtroppo. Proviamo a... Qualche voce la sento bene, qualche altra no. Vediamo. Io l'avevo già presentata. Roidi è stato segretario generale dell'Ordine dei giornalisti, è stato giornalista RAI, è stato al Messaggero, adesso è presidente dell'Associazione Giornalismo e Democrazia. Sicuramente ho dimenticato qualcosa. Ci vuole parlare di questa associazione che con la libertà di stampa ha parecchio a che fare? Ma guardi, secondo me c'è molto da lavorare, almeno in Italia, non so quanto in altri paesi, perché quest'idea che il giornalismo sia al servizio della democrazia mi pare di pochi. Molti pensano che il giornalismo sia uno svago, un intrattenimento, chissà se dice la verità, che cosa dice, quindi diciamo che c'è molto da fare proprio sul piano culturale. Noi in Italia abbiamo un giornalismo che storicamente è nato partigiano, fazioso, e quindi invece spiegare che è al servizio del cittadino e quindi della collettività non è una cosa facile, purtroppo contro i mulini a vento è difficile andare. E voi cosa vi proponete come associazione? Ma noi ci piacerebbe fare un lavoro, diciamo, di base, nel senso che poi una delle idee di partenza è stata che se il cittadino chiede dei giornali migliori, dei giornali più veri, dei giornali più vicini alla realtà, chiede al giornalista di fare il cane da guardia, però per avere questo bisogna che il cittadino per primo ne sia convinto, e quindi bisogna andare nelle scuole, andare nelle università, prima ancora che nei giornali, perché nei giornali ci sono quelli che sono diciamo nati secondo una certa idea del giornalismo, e invece noi dobbiamo cercare alle radici di cambiarla. Però, come si capisce, è un sogno difficile da realizzare, ci vorrebbero delle forze, delle energie. Insisto che bisogna partire dai giovani, perché chiedano un giornalismo diverso. Quando loro lo chiederanno, anche i giornali dovranno cambiare. Sì, ricordiamo il sito dell'associazione, che è www.giornalismoedemocrazia.it, dal quale è possibile anche scaricare i moduli per aderire all'associazione. Non so, qui c'è Annalisa, che è la nostra conduttrice, non so se ha qualche domanda da rivolgere ai due ospiti. Magari vorrei ritornare con Vittorio sulla domanda che avevo posto prima ad Alessandro, sul appunto uno di questi aspetti sottolineati da questo rapporto di cui abbiamo parlato all'inizio, di Freedom House, sul l'eccessivo uso quindi delle denunce per diffamazione in Italia contro i giornalisti. Ma io intanto mi pare che Alessandro, se ho capito bene, Forlani, vero? Sì, sì, sono io. Che io conosco, ci siamo conosciuti in passato e quindi lo saluto. Ti ringrazio. Ma io credo che, per esempio, da questo punto di vista, il tema della diffamazione, andiamo tutt'altro che bene in Italia. Basta guardare queste leggi che il Parlamento sta studiando, le intercettazioni, c'è sempre un clima di ostacolo al giornalismo, non di favorire il giornalismo. Se uno pensa che negli Stati Uniti si condannano i giornalisti che hanno sbagliato, ma per dolo, cioè che sapevano che la loro non era la verità, da noi invece molti giornalisti sono terrorizzati, più che dalla diffamazione, purtroppo dal ricorso al risarcimento di natura civile, perché le casse dei giornali e gli uffici legali dei giornali sono coperti di richieste. Quindi del resto siamo uno dei pochi paesi in cui non si riesce a risolvere le controversie con i giornalisti in modo più civile, non c'è l'ombudsman, il difensore del lettore, da noi non c'è. Perché? Perché c'è in Svezia, perché c'è in Inghilterra, perché c'è negli Stati Uniti, e gli italiani non lo vogliono. Non lo vogliono perché sono i giornalisti che non lo vogliono. E quindi bisogna rifondare la cultura di questo mestiere. Io volevo chiedere a tutti e due gli ospiti. Prima si parlava di giovani e giornalismo, e Roidi diceva che i giovani devono chiedere un giornalismo diverso. Il giornalismo però è una professione che ha ancora molto appeal, molti giovani sognano di fare giornalisti. L'ordine dei giornalisti ha in questo momento riconosciuto 21 scuole in Italia, escono da queste scuole molti giornalisti, non tutti quelli che escono dalle scuole riescono poi a trovare un lavoro che, insomma, che è quello che avevano sognato. C'è qualcosa che dovrebbe cambiare, cioè meno scuole oppure non lo so, un accesso alla professione diverso? Cosa potrebbe fare anche l'ordine, se ha ancora un senso che ci sia un ordine? Magari se vuole rispondere Alessandro e poi facciamo parlare Vittorio. Io sinceramente non mi sento tanto preparato su questo argomento, passo la parola al direttore Ruidi. Ma tanto grazie del direttore. Io insomma intanto distinguerei, non per farla lunga, ma perché i temi sono diversi. Il discorso sull'esistenza dell'ordine è un discorso antico, adesso per esempio c'è un progetto di riforma, ma che è un progetto diciamo di snellimento pur lasciando l'ordine. Però sull'ordine la vera domanda è, vabbè, lo aboliamo, ma dopo andiamo a stare meglio? Alla domanda si deve rispondere in due modi. Uno che è quello della preparazione dei giornalisti, e questo è appunto uno dei due piani che io ponevo, cioè dei giornalisti più formati, dei giornalisti più preparati, dei giornalisti più corretti, con l'ordine o senza l'ordine, insomma l'ordine, queste scuole che purtroppo non sono più 21 ma sono già scese a 15-16, in realtà ne formeranno pochi, però si tirano fuori dei giornalisti migliori degli altri perché più formati. E questa è una questione. L'altra questione è quella invece del lavoro. E certamente l'ordine non crea lavoro, però se non ci fosse l'ordine non è che cambierebbe questo la situazione del mondo del lavoro. Quindi su questo secondo piano, secondo me la questione è industriale. Forse la domanda è, c'è veramente lavoro per i giornalisti? Sostegno anche. Io sono sempre stato molto perplesso di fronte a quello che c'è in Italia, di queste forme di sussidi, di sovvenzioni, di aiuti, perfino ai grandi giornali. Da una parte si aiutano le parrocchie, le piccole radio, piccole iniziative, vabbè, ma non formano giornalisti, le si aiuta a fare musica, a fare piccoli contenitori più o meno divertenti o insipidi, non si aiutano le cooperative, perché in Italia, a parte il manifesto che se la passa sempre male, non c'è una cooperativa di giornalisti? Perché non c'è mai un governo, una classe politica che decide di dare soldi a chi voglia fare delle testate il più possibile libere, e cioè fatte di giornalisti? Quindi questo, tutto questo non c'è, questo aiuto al giornalismo non c'è, e quindi c'è un'industria sempre molto risicata, molto che stenta, di gente che vuole impegnare soldi, naturalmente per farne degli altri di soldi, e invece non ci riesce a fare i soldi con i giornali perché è oggettivamente difficile, e quindi tutto questo va a scapito poi della verità, cioè del fatto che il giornalismo sia un giornalismo che aiuta i cittadini a capire la realtà. Ha una domanda? Ah no, chi? Annalisa. Abbiamo tutti una domanda. Roberto, vai tu. Sì, la domanda è per i nostri ospiti. Come cambierà il giornalismo la transizione famosa dalla carta stampata al 100% verso le notizie online? Come cambierà il ruolo del giornalista e come cambierà anche la legislazione poi al seguito? Penso che comunque ci sarà sempre grande spazio per il giornalista, perché c'è comunque bisogno. Io faccio sempre questo esempio. Ognuno di noi va su internet, va su Google, naviga, trova su un argomento che cerca magari 100 pagine, 200 pagine, per farle passare tutte dovrebbe metterci ore e ore, quindi c'è comunque bisogno di una mediazione, di una persona che ti guidi. Ecco, io penso che il giornalista di domani sarà una persona che aiuterà il navigatore a districarsi, diciamo. Questo è sarà il buon giornalista, e il cattivo giornalista sarà come adesso, cioè quello che darà dei contenuti spazzatura, dell'intrattenimento o anche delle bugie, magari della propaganda, ecco. Dottor Roidi? Ma io sono sono molto d'accordo su questo, nel senso che questo, diciamo, questa idea che servirà sempre un mediatore, cioè una guida, più l'oceano è grande e più serve qualcuno che ti porti, ti conduca e ti dica quali sono le pizze buone e quali sono quelle cattive. E quindi il giornalista in questo senso cambierà forse un po' mestiere, perché dovrà essere ancora più bravo, ancora essere più specialista per riconoscere le cose buone, le cose vere, però certo, se vuole fare il suo mestiere bisogna che abbia questa capacità, cioè di dare poi al cittadino quello che il cittadino chiede in mezzo al mare. E l'altra cosa però, perché io poi sono un idealista inguaribile, io spero che internet in realtà alcuni problemi li risolva, perché quello che, se ci mettiamo insieme in noi 4, 5, 6, 10 giornalisti, non si può fare oggi perché tutto costa troppo caro, una rotativa, la carta, eccetera, con internet costa poco e niente. E quindi da questo punto di vista potrebbero nascere realmente delle testate a tutti i livelli, internazionali come locali. Per esempio io, che sono appassionato di Roma, perché per molti anni, quando stavo alla carta stampata, mi sono occupato di questa città, non vedo nascere un sito dei romani e per i romani che dica la città, che problemi c'ha, ma anche quali sono le strade chiuse al traffico la mattina, dove sono i cortei domani, cioè un sito al servizio. Ecco, questa è una cosa, per esempio, secondo me, che un gruppo di giornalisti potrebbe fare, e oggi lo può fare proprio perché non servono dei grandi capitali. Quindi quello, internet quello può di cui essere stavamo parlando prima, scusa direttore, quello di cui stavamo parlando prima era il problema della diffusione, no? Cioè uno può, appunto, noi possiamo metterci insieme e fare un sito internet, però il problema è quante persone poi lo vedono. Perché la stampa è il quarto potere, no? Abbiamo detto, una definizione che si è inventato Orson Welles, che però è veramente azzeccata, nel senso che nel mondo di oggi, dal Novecento in avanti, non ci sono più soltanto i tre poteri tradizionali, c'è anche questo potere, e chi lo controlla può fare tantissimo, perché può indirizzare l'opinione pubblica. No, guarda, però lo so, certo, il problema è che qualcuno li deve leggere e vedere i giornali, però questo è un problema di mercato, ed è la legge del mercato che vincerà. Credo che sbagli chi pensa che lo può fare una legge, il governo, chissà chi, di stabilire che quel sito è quello buono e quello deve essere visto. Purtroppo bisogna avere la capacità di farsi conoscere, conquistarselo il cliente, conquistarselo il mercato. È un discorso commerciale. Quindi internet azzera in qualche modo tutte le difficoltà che possono venire dalla distribuzione, come dicevi tu prima, e anche quindi dalla televisione, il fatto che uno ha una TV nazionale invece un altro ce l'ha soltanto locale. Quindi nel futuro c'è da essere ottimisti, insomma. Dove c'ho più notizie sulla città, più approfondite di quelle che c'ha il Messaggero, che è il più grande giornale romano, dove io ho lavorato più di 25 anni, e se i cittadini di questa città scoprissero che hanno più notizie su un sito, che oltretutto è probabilmente gratis, probabilmente andrebbero su quel sito la mattina invece di andare in edicola. E non sono convinto che questo succederà, e da una parte non me lo auguro, perché non voglio la morte di nessun giornale, tantomeno di quello dove ho lavorato io per molti anni. Però dico che la partita oggi è molto più varia, vede diversi contendenti, però è una partita, il mercato te lo devi conquistare, il lettore te lo devi conquistare. E oggi ci sono i giornali gratuiti, e se ci sono i giornali gratuiti è perché qualcuno li legge, che ne dicano quelli che storcono il naso, e la pubblicità ci va, e vivono di pubblicità, e allora perché non può vivere di pubblicità un sito ben fatto, che però i romani devono leggere, devono andarsi a cercare, e se invece non ci vanno, allora abbiamo perso, non c'è dubbio. Avrei una domanda nuovamente sull'ordine dei giornalisti. Dicevamo prima se esso debba essere riformato, se ha ancora un senso. Ho una domanda assolutamente da profana, mi chiedo se vorrei sapere da voi se l'ordine dei giornalisti, se negli altri paesi europei esiste un qualcosa di similare, e secondo la vostra esperienza quanto come si paragona l'Italia rispetto agli altri paesi europei per quanto riguarda la possibilità per i giovani di accedere a questo tipo di carriera. Sono uno che ha lavorato all'Ordine dei giornalisti, poi ha mollato anche perché sconfortato e deluso, quindi questa delusione dopo anni potrebbe avere un significato, però io la frittata la rivolto, cioè a me mi si deve dire che cosa si mette al posto dell'Ordine dei giornalisti, perché non mettere nulla vuol dire andare a stare peggio. Vuol dire quel po' di lavoro sull'etica, sulla deontologia, sulla serietà, sulla necessità di difendere i bambini, i malati, le vittime del giornalismo, che ha fatto l'ordine in questi anni. Se lo si abolisce non lo fa più nessuno, ed è quello che vogliono quelli che, ripeto, usano il giornale solo come un pezzo di carta dove si incartano le scarpe e il pesce. Invece il giornale deve essere uno strumento molto di civile, molto, molto più importante. Quindi aboliamo l'ordine. Il fatto che sia un'anomalia italiana non mi spaventa, se serve a qualcosa, se no lo aboliamo. Però io insisto, diteci, ci dica chi lo vuole abolire, le funzioni importanti come quella dell'etica e della deontologia, della sanzione al giornalista che sbaglia, eccetera, e chi lo fa. Però ha un po' svicolato la domanda, Roidi, nel senso che non ci ha detto come funziona negli altri paesi. Io so che per esempio in Belgio c'è comunque un'associazione che non ha non ha l'esclusiva sull'accesso alla professione. Non esiste per legge questo organismo previsto dallo Stato in cui il giornalista professionista è obbligato ad iscriversi, quindi questo obbligo non c'è. Esistono delle associazioni private di giornalisti che poi danno loro la tessera e molto spesso sono organizzate insieme con gli editori, cioè a questa commissione in Francia, in Germania che dà la tessera, ci sono anche gli editori dentro. Come in parte è giusto, io trovo che la separazione con gli editori in Italia è assurda, ma come gli editori sono quelli che i giornali li pagano e sono i principali interessati a stabilire se il giornalista è bravo, se il giornalista è preparato, se il giornalista è corretto o è scorretto. Quindi è assurdo oggi che le commissioni, per esempio, che giudicano i giornalisti non possono essere formate solo da giornalisti. Io sono d'accordo da molto tempo, ma lo dice oltretutto l'Unione Europea, che nessuna professione, gli avvocati, i medici, possono essere corporative, usiamo questo termine, perché così lo si diventa. Quindi si può sicuramente, però non ci si illuda che abolendo si liberalizza e dopo tutto va bene perché tutti diventano giornalisti. Non è vero, tutti diventano giornalisti ma non trovano nessun giornale che li fa lavorare e sono dei pessimi giornalisti perché nessuno li ha formati e preparati. Alessandro, tu vuoi aggiungere qualcosa? Soltanto che il problema è un po' la mentalità che c'è in Italia, per cui, come dire, io penso che sarebbe giusto che chi fa il giornalista avesse la laurea, fosse obbligato, non so, a conoscere una lingua straniera, quindi che ci fosse forse ancora più ordine, diciamo, no? Il problema è sulla stessa strada. Questo è vero che non è necessario che sia l'ordine, però è l'ordine che in Italia ha stabilito che le scuole di giornalismo devono avere laureati. Sì, però contemporaneamente vengono assunti, poi magari appunto quello che ha fatto la scuola sta a casa, invece nel giornale ci va quello. Non c'è l'obbligo della laurea e agli editori va bene così, perché loro il più ignorante è il giornalista che prendono, che mi scusi qualcuno che magari invece fa l'editore seriamente, e meglio stanno. E non si preoccupano di prepararlo e di prenderlo che sappia le lingue, che sia laureato e che conosca il diritto, l'economia e altre cose. Quindi bisogna alzarlo il livello di quelli che fanno quella che è vogliono dei professionisti in questo campo, ossia grazie a una presunta libertà anarcoide per cui tutti parlano, benissimo, tutti parlano, sono contentissimo che tutti parlino, ci mancherebbe altro, ma per parlare non si deve essere giornalisti. Se uno invece si vuole definire giornalista, si deve stabilire quali sono le sue caratteristiche, se deve avere una laurea, quale preparazione e anche chi lo giudica e lo caccia via se non è bravo, come un avvocato, come un medico. Ecco, è una professione? Allora il discorso va in una certa direzione, se non è una professione va in un'altra. Ecco, all'inizio della trasmissione, direttore, abbiamo parlato appunto proprio di questo, di questo problema, cioè come sono confezionati i giornali e soprattutto come è confezionata poi la televisione, no? Si dice che oggi si fa dell'infotainment, cioè si mette insieme appunto l'informazione e l'intrattenimento, per cui appunto poi non è difficilissimo fare giornalista, no? Io ti volevo sottoporre queste due questioni. Diciamo, lavorando oggi alla radio e in televisione, in Italia soprattutto, si nota questo assetto, diciamo, di un palinsesto e poi anche di un menabò, diciamo, di un giornale, delle notizie molto brevi e diciamo ripetute. Io parlo di televisione e radio soprattutto, e poi tante opinioni che sono tutte sullo stesso piano, specialmente opinioni contrapposte, no? Si cerca uno di destra e uno di sinistra e finisce lì. E appunto il giornalista poi non ha l'obbligo di scavare e anche di essere lui a informarsi e a fare un'inchiesta, per così dire, no? Sia perché, come dicevamo prima, c'è il problema della diffamazione, per cui non si vuole rischiare, però soprattutto perché, come dicevi tu prima, io vengo assunto per un certo scopo, no? Che è quello di come dire, diffondere una certa idea, quella del mio editore. Ecco, sotto questo profilo, come dire, la battaglia italiana è persa? No, intanto tieni presente che molti di quelli che fanno radio, che fanno televisione, non sono affatto giornalisti. Nessuno glielo ha chiesto e non c'è l'obbligo di esserlo. Tu apri la radio in Italia, io ho fatto 10 anni di Rai, al vecchio giornale radio, poi al GR1, credo di sapere di cosa parlo, perché io poi due cose ho fatto nella mia vita: la carta stampata al Messaggero e la radio alla Rai, il giornale radio e il GR1. Tu apri la radio e non sai chi parla, solo quando c'è una sigla del giornale radio sai che quello è un giornalista, e spesso e volentieri, come dici tu, anche lì lui non fruga e non scava, ma presenta due signori, se va bene due, che si scannano, dicono le loro opinioni e lì finisce. Ma spesso non sono giornalisti invece quelli che parlano, tu hai dei contenitori dove si parla anche di cose molto importanti, terremoto, tutte cose anche serie, mica solo bagatelle, baggianate. E questo che tutti noi chiamiamo l'infotainment, in realtà è poi la commistione con l'intrattenimento, con il varietà, che pure è così. Noi abbiamo dei contenitori televisivi il pomeriggio fatti dalla rete 1 della RAI, mica da una radiolina o una piccola televisione privata, dove in realtà quelli che vanno col microfono in mano in giro per l'Italia a fare interviste non si sa chi sono, e spesso e volentieri non sono giornalisti. E intendiamoci, viva la libertà, per tenere un microfono in mano non c'è bisogno di avere una laurea o chissà quale specializzazione, diamolo a tutti, tutti col microfono, però poi non ci lamentiamo se dicono delle bestialità e se vanno davanti alla signora che ha perso la casa e gli domandano: signora, come si sente? Quello è un imbecille a cui è stato dato il microfono in mano, e questo lo fa la RAI, cioè il maggiore editore di questo paese, mica, e che ha una convenzione con lo Stato e un grandissimo grado di responsabilità, perché è la RAI. Quindi a questo punto noi siamo ancora, ecco perché io dico attenzione a dire liberalizziamo, è già tutto libero, è tutto liberalizzato, a chiunque viene data un microfono Poi sì e no gli vengono dati i 500 euro alla fine del mese, perché naturalmente è mano d'opera che si trova, c'è la fila fuori dalla porta, senza nessun, prima di fargli un contratto, credo che insomma molti di quelli che stanno parlando sappiano di cosa stiamo parlando, quindi anche una forma di sfruttamento. Però all'origine c'è oltretutto questo mischiare il giornalismo con altre forme di comunicazione, di informazione, di intrattenimento, che aumenta la confusione e spesso abbassa anche il livello, nel senso che si sentono delle cose che sarebbe meglio non sentire e non leggere. Ci stiamo avviando verso la conclusione del programma. Io volevo chiedere, veramente in sintesi, un esempio. Come è stato trattato secondo voi dai media italiani questo fenomeno, che perché ormai non è neanche più un fatto, non è neanche più una notizia, ma è giorni che va avanti, del respingimento degli... Non degli... sento più nulla, purtroppo, la domanda non la sento. Mi sente? Mi sente? Sì, per fare un po' più forte ti sento. Sì, chiedevo un'opinione più possibile telegrafica, perché ci stiamo avviando in conclusione, su come è stato trattato dai media italiani il fenomeno del respingimento degli immigrati. E mi riferisco a questo perché all'inizio io, essendo qui in Belgio, l'ho vissuto un po' anche con la stampa straniera e con i siti stranieri, ma mentre da parte dei siti stranieri e di molti media stranieri, anche autorevoli, c'è stato veramente uno scandalizzarsi, nei media italiani io ho visto un po' una... All'inizio è stato preso un po' come... c'è stata un po' la tendenza a dire ma che cosa sta facendo il governo italiano, poi c'è stato sempre più un appiattimento e adesso sembra quasi si tende sempre a dare un po' le due opinioni, si tende a chiamare uno, poi chiamare un altro, che danno due opinioni differenti, chi dice che questa cosa viola il diritto internazionale, chi dice che non la viola, e la gente non so poi che opinione si possa fare, chi può approfondire la cosa. Italiani, non parlo solo dei giornalisti, insomma negli ultimi anni siamo stati in effetti preoccupati di questi arrivi in massa, che questo flusso in qualche modo si riuscisse a interromperlo, naturalmente salvando le persone, salvando i diritti umani delle persone. Nel momento in cui poi questo governo ha cominciato a fare sul serio, nel senso che ha ottenuto da Gheddafi che li riportiamo indietro, una parte dell'opinione pubblica ha pensato e sta pensando, forse anche una parte dei giornalisti, era quello che bisognava fare. Adesso invece ci si accorge un momento, ma quella è povera gente, quelli sono profughi, quella è gente che si deve salvare dalle guerre e dai nemici politici, glieli restituiamo. Anche qui temo che la cultura giornalistica, io uso questo termine per dire la sensibilità, la preparazione ai problemi, la coscienza di chi fa questo mestiere, non sia stata, non stiamo dimostrando una grande sensibilità su questa materia, insomma. Non è neanche la prima volta. Io mi ricordo quando nel canale di Sicilia affondò quella nave famosa, quel barcone famoso con 300 morti, e poi ci fu un inviato di Repubblica che finalmente andò e si mise a scavare, a trovare, a capire, ad intervistare i pescatori che tiravano su nelle reti i pezzi di esseri umani, e questa cosa finalmente venne alla luce. Ma i giornali non hanno mai dimostrato, dico con una certa tristezza perché parlo della mia categoria, nessuno scagli la prima pietra, ci mancherebbe altro, non hanno dimostrato una grande sensibilità in questa materia. Tu, Alessandro, vuoi aggiungere qualcosa? Io penso che, diciamo, di reportage sui giornali su questo episodio ce ne sono stati, cioè andare a cercare le notizie si è visto, bisognava insomma raccontare proprio concretamente come vivevano queste persone che sono state rimpatriate, poi rimpatriate, insomma respinte, e questo andando, ripeto, a cercare un po' sui, magari nelle pagine interne, si è fatto. Quello che secondo me non si è fatto è un'inchiesta come dire, globale, cioè sulla su queste persone da dove partono, perché partono e quindi che cosa si potrebbe effettivamente fare in questi paesi di origine. Questo veramente c'è poco, insomma, è stato, c'è questo giornalista Fabrizio Gatti che ha fatto qualche cosa, ma veramente per il resto poco, insomma. Siamo purtroppo in chiusura, vorrei ringraziare i nostri ospiti, Vittorio Ridi in collegamento e Alessandro Forlani qui in studio. Grazie a tutti, buona serata. Grazie per una puntata, è stata veramente interessante. Saluto Molinari. Salve. Ciao direttore, ti saluto anch'io. Arrivederci. Maurizio, quindi niente, chi vuole riascoltare la puntata può andare sul podcast che... Posso dire soltanto una cosa proprio rapidissima in conclusione, siccome abbiamo parlato, diciamo, dell'ottimismo, insomma, no? Che domani internet e quindi c'è più libertà. Ecco, io volevo dire che in Italia consumo, diciamo, di internet, l'utilizzo di internet per l'informazione è ancora veramente molto molto basso, e poi ci sono dei serissimi problemi con il cosiddetto digital divide, cioè ci sono tantissime zone in cui c'è ancora soltanto il modem a 56k, insomma, e comunque anche in generale, anche nel resto del mondo, la stragrande maggioranza della gente si informa con la televisione ancora, quindi insomma sono cose veramente molto molto lontane. Sì, dicevo, chi volesse riascoltare la puntata, il sito è per il podcast radioalma.blogspot.com. Abbiamo anche una pagina su Facebook, vale la pena ricordarlo, la pagina Radio Alma 101.9, dove tutte le puntate di Giro di Boa e degli altri programmi del palinsesto italiano sono disponibili poche ore dopo la diretta. E c'è poi anche il gruppo su Facebook di Giro di Boa, per chi, insomma, vuole iscriversi e vuole sapere magari anche in anticipo quale sarà l'argomento delle prossime puntate. Io ringrazio Alessandro in studio, Annalisa, Maurizio, grazie a te. Ripeto, una puntata veramente, veramente interessante, cari radioascoltatori, riascoltateci in podcast. Questa volta a risentirci non alla settimana prossima, perché qui in Belgio è festa, farà festa anche Radio Alma e Giro di Boa. A risentirci quindi a giovedì 28 maggio, se non sbaglio quella data, fra due settimane. A risentirci.